Buonasera, benvenuti a tutti da parte dell'Associazione Scrittori e di Andrea Zanotti che andiamo un po' a conoscere. Allora, vivi a Bolzano, laureato in economia e commercio e ha lavorato per diversi anni presso un'azienda di energia elettrica e però adesso ti occupi di investimenti in borsa. Sì. Però una cosa che mi è saltata all'occhio quasi subito è questo conflitto di interessi, no? Tra questi investimenti in borsa, che è una parte insomma, molto razionale, e poi l'amore verso i War Games, gli universi fantastici, e poi interesse verso il misticismo, le religioni antiche e la meditazione. Come mai questi studi così diversi e oltretutto come li concili tra di loro? Tanto grazie per l'invito. Sì, questo è un aspetto che balza abbastanza all'occhio, questa dualità, diciamo, e credo che sia un tentativo di equilibrare due ambiti completamente distinti, per cui abbiamo la mente più razionale, e quella che serve per fare qualsiasi cosa, rispetto a una mente più sognatrice o più volte all'immaginario, per cui è un tentativo di equilibrare questi due Questi due aspetti. aspetti. Come e soprattutto quando nasce questo romanzo? È indicativo, secondo me, anche quello. Sì, questo è nato durante il periodo della pandemia, e per cui i primi mesi li ho vissuti abbastanza sotto shock come tutti, e lì la creatività era come sparita. Dopodiché ho sentito un po' la necessità di mettere nero su bianco quelli che erano i pensieri e le esperienze maturate in questo periodo del tutto particolare, che speriamo di esserci lasciati alle spalle per sempre. E quindi ne è nato un distopico alla fine, stranamente. Così, insomma, soprattutto perché è stato un periodo nel quale si è visto chiaramente la potenza che hanno i mezzi di comunicazione di massa per indirizzare l'opinione delle persone, insomma, per cui questo traspare anche nel romanzo, insomma. E infatti parliamo un attimino del titolo, Avvicinati al microfono. è che sei tu rimbombo. Parliamo un pochino del titolo, Anabasi Project. Cosa significa? Il titolo anche l'ho voluto scegliere apposta per mettere assieme due aspetti distinti, perché Anabasi, che significa appunto ascensione verso il paradiso, quindi il tentativo dell'uomo di autorealizzazione, quindi legato alla spiritualità, e project invece che rimanda più a quelli che sono i tecnicismi e la pianificazione più concreta, e quindi mettendo le due cose assieme ho voluto tentare di unire questi due ambiti. Allora, la storia si svolge in due mondi, in quello reale e in quello virtuale. Allora, come te lo raffiguri il nostro mondo in un futuro, magari pure prossimo, magari? Sì, nel romanzo ci troviamo sempre al cospetto di grandi città molto inquinate, con droni della polizia e sanitari che ronzano in giro per le strade, e quindi la popolazione praticamente va molto poco a piedi, anche perché è tempestata da queste pubblicità chimeriche, che sono come delle pubblicità virtuali che possono saltare fuori da qualsiasi posto, incentivandoti a consumare sempre di più. E questo è incentivato proprio dallo Stato, perché in questo mondo immaginario ogni persona ha un rating personale che varia appunto in base a quanto consuma, e se si scende sotto una data soglia di consumi si viene riformati dallo Stato, per cui è bisogna stare attenti a fare buoni cittadini, a contribuire alla crescita del prodotto interno lordo della società, insomma. E è così, così. Ora sentiamo un pezzettino di... Da meno di 2 settimane aveva ricevuto il ben servito dalla sua ditta, dopo 15 anni di onorato servizio, e già la sua vita andava a puttane. Non che prima se la spassasse, ma non si era mai trovato ad abbassarsi in fascia gialla. Un limbo riservato ai contribuenti mediocri, con una capacità di spesa insufficiente, fardelli per la società, incapaci di alimentare il prodotto interno lordo del paese e contribuire a un sano sviluppo. Reietto e derelitto, tutti l'avrebbero saputo. Uno zimbello, stigmatizzato da Stato e conoscenti. Avrebbe dovuto abbassarsi a far richiesta del reddito universale. L'avrebbero spedito in riformatorio per indottrinarlo ben benino prima di affidargli il sussidio per gli inetti e i falliti. E qui si capisce, insomma, già in che tipo di società è previsto, sì, sì, in questo romanzo distopico. Allora, cominciamo a parlare un po' dei protagonisti. Sono 4, perciò anche il quinto appare magari un po' meno, però è molto importante anche lui, no? E il primo è, nel mondo reale, è Niccolò, che è uno studioso, è intelligente, pacato, e ha una bimba con cui gioca le bambole. Allora, ancora prima di andare a leggere quello che aveva scritto su se stesso, solamente dalla descrizione ho detto, anche se non lo conosco tantissimo, assomiglia un po' a lui questo personaggio. Allora, quanto Andrea c'è in Niccolò? Sì, diciamo che un po' in tutti i personaggi ci sono delle caratteristiche dell'autore, come in tutti i casi. Niccolò chiaramente è quello che esprime maggiormente gli aspetti più evidenti, diciamo, quindi l'interesse per le religioni antiche e appunto il fatto che giochi con la propria bimba, anche con le bambole, e anche se la mia ormai ha 11 anni, quindi ormai si sente grande, per cui, però diciamo che ci sono anche delle belle differenze, perché Niccolò è proprio impostato con un odio totale per le tecnologie, per cui lui sarà l'unico a non provare mai questo Anabasi Project. Io sono un po' più disponibile magari al tentativo, poi magari la critica ci sarà uguale, ma intanto un tentativo lo faccio, insomma. Allora, sentiamo un pezzettino di Niccolò studioso. Le sue ultime meditazioni l'avevano condotto sempre alla medesima conclusione. O il male si era insinuato durante il processo della creazione, oppure faceva parte del disegno divino. Non c'erano alternative a quel dilemma. In ambi i casi si disegnavano scenari inquietanti. La fede oscillava quindi fra il credere in un Dio sinistro, che aveva progettato scientemente il male, e quella in un Dio maldestro, finito e fallace, capace di farsi beffare dal male. Non avrebbe saputo dire quale delle due soluzioni fosse preferibile. Forse per quello la fede era stata accantonata a favore della materia, e l'unico Dio era il denaro e i suoi discepoli le agenzie di rating. Questo è il Niccolò studioso, e poi invece c'è il Niccolò papà e la sua bimba. Papà, e a cosa vorresti giocare? Giochiamo a fare le pappe. Polly e Jessica vogliono uno spezzatino di sciacallo, polenta balsamica e succo di malandrino. E sì, al lavoro allora. La piccola principessa esigeva la sua presenza in qualità di sguattero. A 9 anni suonati la bimba iniziava a crescere, e l'uomo non sapeva per quanto avrebbe voluto giocare con lui. Temeva ben poco. Meglio godersi appieno quegli ultimi periodi di condivisione totale. Questo abbiamo provato tutti, mi sa, con i figli. Che... ci ho preso abbastanza, in effetti, nei 2 anni passati. Ho preso un'altra direzione. Cambiano. Allora, sì, prima di parlare dei personaggi che incontriamo nel mondo virtuale, ci dovessi parlare un attimino del dottor Fanasol, che è il creatore di questo mondo virtuale, questa Anabasi Project, e della sua idea. Esatto, il dottor Fanasol è il proprietario di questa multinazionale che mette in piedi il progetto Anabasi e quindi gode di risorse praticamente illimitate, a mezzi di comunicazione molto potenti, e il suo scopo però, cioè lui vorrebbe effettivamente diventare un filantropo, un santo quasi, quindi impianta questo progetto con la finalità di far evolvere le persone, anche se lo fa fornendo dei premi che possono essere sia in denaro che in status symbol da sbandierare verso gli altri giocatori. E sì, poi magari sì, l'intento è buono, no? L'intento è buono, è quello di riuscire a plasmare un po' il comportamento delle persone in questa realtà virtuale, in modo che poi lo trasferiscano anche nella realtà concreta, no? Quindi questo meccanismo di premi per le buone azioni, lui spera che possa essere poi ricondotto alla realtà. Mm-hmm. Sì. Infatti, cosa dice? Lavoriamo per la luce. Anabasi Project nasce con il nobile intento di premiare i meritevoli, i buoni, ben più di quanto non avvenga nella vita reale. Le regole volute dal professore sono volte a ricreare una società non più basata sulla competizione, ma sul giusto premio per chi decide di collaborare, di collaborare con il prossimo. Ogni sfida pianificata dai nostri programmatori è finalizzata a questo nobile intento. Quindi, vediamo un attimino questo mondo virtuale. Perché ci troviamo arcangeli, cherubini, magi, veramente è molto popolato, no? Ma piace così tanto che praticamente coinvolge milioni di persone, tutti si innamorano di questo Anabasi Project, vogliono entrare in questa realtà virtuale. Come mai piace così tanto? Beh, lui, il dottor Fanasol, l'ha creato appositamente con questa aura di misticismo, i suoi collaboratori più cari vengono appunto definiti angeli, arcangeli, sono quelli che devono mantenere questo meccanismo di premi e sfide, no? Sfide che sono poi tarate sulla singola persona in base a una profilazione che è stata fatta ricavando proprio i dati di ogni iscritto, no? Perché nel momento in cui uno si iscrve vengono raccolti tutti i dati, insomma. Quindi lui ha già ben precise le caratteristiche di ogni giocatore e gli riesce a far sì che così le missioni siano tarate appositamente per lui. E sì, diciamo che fondamentalmente le persone iniziano a giocare a questo gioco perché hanno la possibilità, ovviamente, in una realtà virtuale di sentirsi più se stesse grazie all'anonimato. Questo è già un primo motivo, ma il motivo che poi ha attratto milioni proprio di giocatori è il premio in denaro, perché lui riesce a istituire questi dollari deperibili, li chiama, che sono come il denaro reale, che però perde di valore col tempo, e per cui chi ne viene in possesso è molto incentivato a spenderlo il prima possibile, no? Prima che deperisca, appunto. E ha ottenuto l'ok dalla banca centrale globale di questo mondo a dare questo denaro, perché ovviamente è un incentivo fortissimo a aumentare i consumi nel breve periodo, no? E quindi persone, chiaramente, insomma, avendo questo, potendo giocare e essere remunerate, tra virgolette, sono fortemente attratte a popolare questo mondo virtuale. Gli euro deperibili. Sarebbero, esatto, una forma di inflazione. Però, insomma, l'ha già un po' detto lui. Queste sono le cose che gli vengono dette, ma pensa seriamente che la competizione sfrenata e ostentata a far del bene sia diversa dalla competizione a primeggiare in qualsiasi campo? Non ci insegna forse Gesù a non suonare la tromba davanti a noi quando facciamo l'elemosina per essere lodati? Scusatemi, a non suonare la tromba davanti a noi quando facciamo l'elemosina, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe o nelle strade per essere lodati dalla gente? Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E qui vedete che insomma... Esatto, qui insomma in sostanza i suoi fini possono anche essere buoni, però sì, l'avidità, la vanagloria, la superbia si infiltrano nel suo progetto, perché come conseguenza insomma è il lato oscuro appunto di questo progetto. Insomma. Molto fiducioso nei riguardi degli uomini. Allora, nel mondo virtuale poi, che poi lo ritroveremo anche in quello reale ovviamente, c'è Runa, che già il nome insomma, no? È indicativo, ed è una ragazza dai molti talenti. Raccontaci un po' di Runa. Beh, Runa fa parte dei cattivi di Anabasi Project, tra virgolette, insomma, almeno quelli che per il dottor Fanasol sono considerati dei cattivi, dei terroristi a tutti gli effetti. Lei fa parte di questa setta, lei intanto si iscrive con lo scopo di scacciare gli altri iscritti, perché ritiene che stiano buttando via le loro vite passando tutte queste ore su questa realtà virtuale. Come mezzo ha scoperto l'esistenza di questa setta, tra virgolette, che è capace di evocare i demoni in questa realtà virtuale. E demoni che riescono a destabilizzare completamente la programmazione e le leggi imposte dal dottor Fanasol e dai suoi programmatori. E quindi lei entra appunto in una di queste coven, che sono le cellule terroristiche, tra virgolette, composte da quattro componenti, ognuna rifacendosi al mondo della Cabala, ai quattro mondi della Cabala, perché appunto questi magi che organizzano questa setta si rifanno a una visione cabalistica, diciamo. Dopo guardiamo magari un po'. Leggo quello che pensa Runa, praticamente questa. L'essere umano dimentica che se esiste è perché serve a qualcuno, esattamente come tutte le altre forme viventi e non dell'universo.